La Costituzione europea è stata adottata venerdì 18 giugno dai 25 Paesi membri. La Costituzione che abbiamo si chiama democrazia, perché lo Stato non si basa sulla volontà di pochi, ma su di una maggioranza. Con queste parole di Tucidide esordisce il preambolo del contratto per una Costituzione europea. Ma già qui iniziano i problemi. Se si considera che è proprio una minoranza quella che ha determinato l'elezione del Parlamento europeo, la minoranza di coloro che sono andati a votare. Minoranza che per di più sembra essere andata a votare per esprimere un giudizio sulla politica nazionale delle rispettive maggioranze, piuttosto che per determinare la composizione del Parlamento europeo. Difficilmente la Costituzione riuscirà a sanare queste difficoltà. La Costituzione italiana si compone di una cinquantina di pagine, per un totale di 139 articoli, malgrado ogni attacco regge da 60 anni e ogni studente superiore ne ha preso visione. La Costituzione europea consta invece di oltre 300 pagine e persino il preambolo è inaccessibile a chi non abbia competenze tecniche specifiche. È difficile che gli elettori di quei paesi che saranno chiamati a votarla si diano la pena di un'analisi critica e nel caso in cui un solo paese non dovesse ratificarla, il Parlamento europeo sarà costretto a cercare un'altra soluzione. Tre sono gli obiettivi che attualmente la comunità europea ha manifestato di voler raggiungere. L'integrazione dei 10 nuovi paesi membro, poi l'ingresso della Bulgaria, della Romania e della Croazia, lo sviluppo di una politica degli esteri e di difesa comune, lo sviluppo delle competitività economiche dell'area di scambio libero. Per quanto riguarda il primo punto, l'ulteriore integrazione che prevede la Costituzione sarebbe piuttosto controproduttiva, renderebbe più difficile l'adeguamento ai nuovi. Del secondo e del terzo punto saranno responsabili diversi esecutivi politici. Per quanto riguarda la competitività, in particolare, anche la Costituzione europea non sana il conflitto tra le politiche economiche nazionali e i principi determinati dalla sempre indipendente Banca Centrale Europea. E l'esempio di Francia e Germania, a cui presto si aggiungerà l'Italia, dimostra che questi conflitti possono anche essere gravi. Fatto sta comunque che tutti questi problemi sono raggiungibili e risolvibili anche senza Costituzione. La ragione dell'astensionismo alle ultime europee è stata analizzata in lungo e in largo e sono soprattutto due: la poca trasparenza del moloch burocratico europeo, la tendenza dei partiti politici nazionali a traslare il significato del voto dal piano europeo a quello locale, togliendogli ogni significato. Nel merito di questi problemi però la Costituzione europea non entra. Cercando di non far torto a nessuno, si mantiene nell'ambito tecnico, tenta di rappresentare se non altro la complessità culturale dell'Europa. Semplificando, sono due le vulgate che si contrappongono all'indomani del summit di Bruxelles. La prima vede nel testo approvato il vero punto di partenza per l'unificazione politica del vecchio continente. La Costituzione è l'essenza dell'unità politica, ha dichiarato Romano Prodi, comparando l'introduzione della Costituzione con quella dell'euro. La seconda invece vede nel compromesso costituzionale la fine definitiva del vecchio obiettivo di creare un'Europa superpotenza culturale, politica, economica e militare. La Costituzione rischia di essere il canto del cigno della grande Europa, scriveva sabato 19 giugno il quotidiano francese Libération. Entrambe queste interpretazioni però si fondano su di un malinteso, e cioè che i politici europei, tramite l'approvazione di questo testo, abbiano previsto un qualche travaso di sovranità dalle nazioni all'Europa. Questa cosa non è vera, e in ogni caso non è comparabile al passaggio all'euro. L'Europa cerca una legittimità non solo nei confronti del mondo, come faceva la Costituzione americana all'epoca del proprio concepimento, ma nei confronti di se stessa e degli stati costituenti, arrivando quindi a compromettere la credibilità e la sostanza del progetto stesso. Senza troppo detrarre, tuttavia, occorre anche rilevare come in Europa per 60 anni la fiducia tra le nazioni sia cresciuta al riparo delle costituzioni di ogni singolo paese. Le cosiddette tradizioni costituzionali comuni, che insieme costituiscono le comuni fondamenta culturali, storiche e giuridiche di qualunque costituzione che l'Europa deciderà di darsi. La Costituzione europea infatti riconosce i diritti fondamentali della Corte di Giustizia o della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950. Questa Costituzione però non caratterizza in nessuna maniera l'Europa, non come entità politica, non come entità storica, eppure i festeggiamenti del 6 giugno scorso per i 60 anni dello sbarco in Normandia hanno messo in risalto proprio l'identità storica, quella della Seconda Guerra Mondiale, ovvero della lotta vittoriosa contro altri principi d'Europa, basati su dittatori e allucinazioni razziali. L'abbraccio tra Chirac e Schröder, come l'immagine di Mitterrand e Kohl, mano nella mano, testimoniano la necessità che anche la politica percepisce di forti simboli che trasmettano l'immagine concreta dell'Europa ai suoi cittadini. Un'immagine di pace presente, alleanza futura, ma anche di ricordo della tragedia del passato. Da Strasburgo, Tito Gandini per Amisnet.